edizione. Siamo prontissimi con i giornali di questa mattina per vedere quali sono i temi sulle prime pagine. Misure come negli anni 70, così titola il Corriere della Sera, è il piano di Maroni che oggi sarà in Senato per presentare le misure per evitare violenza durante le manifestazioni di piazza, arresto di ferito e fermo di polizia. Così, apertura del Corriere della Sera, Roma stoppa i cortei in centro, anche l'apertura del Messaggero che racconta anche le storie, la città che riapre dopo la devastazione. Ma il Corriere della Sera a riportare intanto un'altra notizia a firma di Sergio Rizzo: se il Parlamento produce solo 14 leggi, tante sono quelle varate su iniziativa di deputati e senatori quest'anno. Così il Corriere della Sera. La Repubblica mette solo di spalla le leggi speciali anti-black bloc, la Camusso che attacca Alemanno, perché l'apertura della Repubblica invece è tutta politica, i cattolici via Berlusconi, e il riferimento è quello al convegno delle associazioni cattoliche ieri a Todi, dove è arrivato un messaggio: serve un nuovo governo, Bagnasco che dice facciamoci sentire. E poi a centro pagina sulla Repubblica ancora si parla di intercettazioni, ieri pubblicata un'intercettazione di una telefonata tra Berlusconi e La Vitola in esclusiva dalla Repubblica. Oggi il filone è sempre quello: da Frattini a Buonaiuti, tutte le manovre di La Vitola, così titola la Repubblica. Nelle telefonate si presenta come consigliere del Premier ed è bufera sul Cavaliere. Il Sole 24 Ore, altra notizia in apertura: la Merkel spaventa le borse, ve l'abbiamo detto anche noi in GR24, la doccia fredda della cancelliera sulla crisi del debito, il vertice del 23 ottobre non sarà risolutivo, dice la Germania, e i listini europei e americani sono in picchiata, crolla Piazza Affari, e questa mattina già lo dicevamo, non migliora la situazione il fatto che la Cina ha comunicato che rallenta ancora la crescita del colosso cinese, 9,1% il PIL nel terzo trimestre. Altre segnalazioni dai giornali a fondo pagina del Corriere della Sera: Piazza della Loggia, la strage di Piazza della Loggia del 74, un nuovo pentito davanti ai giudici, un friulano di 60 anni legato alla destra eversiva, una vicenda che si riapre. E poi ancora a centro pagina del Corriere della Sera: assassinato da un sicario nelle Filippine il prete italiano che difendeva la tribù. La notizia ve l'abbiamo data in tempo reale ieri mattina proprio a quest'ora. Ma voltiamo pagina e parliamo d'altro, perché anche questa notizia la troverete, ma non in evidenza sui giornali. Noi invece ve la vogliamo raccontare, perché è stata missione compiuta all'ONU per Mario Pescante, vicepresidente del CIO, con una votazione record sottoscritta da 193 nazioni. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha infatti approvato all'unanimità la tregua olimpica per le Olimpiadi di Londra del 2012. Non era scontato, viste le reazioni di Iran e Siria. E allora io saluto ancora Dario Ricci, che è con un ospite proprio Mario Pescante. In diretta da New York con Mario Pescante, vicepresidente del CIO, benvenuto a Radio 24, presidente. Bentrovati. Sì, all'unanimità alla risoluzione. Cosa vuol dire, presidente, questo passo? Ma guardi, la prima applicazione della tregua olimpica è avvenuta stamattina stessa, perché fino a qualche minuto prima della votazione c'erano due paesi contro, Iran ed Siria. Poi l'Iran ha avuto firmare e pochi secondi prima dell'inizio della discussione si è adeguato anche la Siria, quindi diciamo c'è stata, come l'ha detto il delegato siriano, una prima applicazione della tregua olimpica. Ma lei sa che il sottotitolo di questa risoluzione è tregua olimpica, che si rispettava nell'antica Grecia, non si rispetta nei tempi moderni, perché le Olimpiadi non hanno mai fermato le guerre, è successo l'inverso. Però il sottotitolo è per costruire insieme, CIO e ONU, un mondo più pacifico grazie allo sport. Tutto questo è molto importante, che questo tipo di riconoscimento venga dall'ONU all'unanimità, e quindi è un grande momento per lo sport olimpico. E anche forse insieme all'accensione della fiaccola olimpica è il momento simbolico più forte, perché si recupera lo spirito di Olimpia, quando i giochi riuscivano a fermare le guerre. Sì, le stavo dicendo prima, in tempi che qualcuno definisce meno civilizzati, 10 secoli questa tregua olimpica è stata rispettata, tranne una volta. Nell'era moderna l'Olimpiade non ha mai fermato la guerra, dicevo prima, ma sono le guerre che hanno fermato due volte l'Olimpiade durante i conflitti mondiali. Beh, ciò nonostante, però, è stato riconosciuto il contributo che lo sport sta dando quotidianamente, non solo ogni 4 anni con l'Olimpiadi, per abbattere le barriere di ogni tipo, e quindi interventi di solidarietà, Haiti, Darfur, campi profughi palestinesi, questa roadmap che sta proseguendo tra Palestina e Israele. Tra l'altro l'Italia sarà in prima fila, perché grazie all'impegno della Federcalcio e della Lega Pro saranno invitate le due rappresentative israeliane e palestinesi, anche se in tempi diversi, a giocare in Italia nel mese di novembre. Quindi, come dire, lo sport va avanti e spesso raggiunge risultati che la diplomazia non raggiunge. Questo addirittura è stato detto oggi a Roma. L'obiettivo forte, come sottolineava Presidente, è quello di sancire a Londra 2012, a 40 anni dalla strage di Monaco 1972, un riavvicinamento sostanziale tra Israele e Palestina. Da questo punto di vista, a che punto è il lavoro del CIO? Ah, guardi, ci sono trattative in corso, anche in queste ore. Il primo passo sarebbe quello, intanto, perché alle Olimpiadi ci saranno tutti e due paesi, ma dove non riusciamo a farli entrare è ai giochi del Mediterraneo. Si sta camminando, si va avanti, i passi sono lenti, ma... Presidente Pescante, grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24 in diretta da New York e buon lavoro in vista di Londra 2012. Grazie, arrivederci. E grazie anche a Dario Ricci. Sport e non solo, visto che oggi sarà una giornata importante per il dialogo tra israeliani e palestinesi, anche con la liberazione del soldato israeliano Shalit a Gaza, prigioniero dal 2006. Noi torneremo a parlarne più avanti. A prima edizione torniamo invece ai giornali. Ma in qualche modo non ai giornali cartacei, ai giornali online, perché anche questi sono sempre più una fonte di informazione, lo sono anche coi video e coi sonori ormai che pubblicano. E allora vi facciamo fare anche un salto sul web con questa mini rassegna stampa di prima edizione per aprire la giornata. Quello che sentite è un video che è pubblicato sui siti di Corsera, Fatto Quotidiano e Libero. Nel video è stato ripreso da un cellulare da un delegato della Lega di Varese durante la elezione del segretario imposto da Bossi, Maurillo Canton. Si vedono le contestazioni a Bossi all'interno del congresso, che era a porte chiuse. Ci sono alcuni interventi, poi il senatore invita a votare Canton senza fare storie, dice, ma il voto per acclamazione viene contestato da numerosi delegati. Anche questa, in qualche modo, una rassegna stampa. Uno sguardo alle borse, dicevamo la giornata non è iniziata bene in Asia, aperto nel frattempo anche l'India, Mumbai aperto in netto calo, meno 1,3%, meno 1,5% perde Tokyo in questi istanti. C'è però anche un altro modo per raccontare la crisi, ce lo racconta Maria Luisa Pezzali. Tu te la ricordi quella spigoletta che ci siamo magnati 2 settimane fa? Quella spigoletta un giorno stava annotando il mare, arriva uno, butta giù l'amo e ci rimane attaccata. Allora quello tira su, la porta al mercato e poi dice, mo quasi quasi ma la vendo a 20.000 lire al chilo. Allora siccome a te quel pescetto ti fa bene e io non ho le 20.000 lire per comprarlo, che devo fare? Me lo pio? Come lui se l'è preso dal mare, io me lo pio dal banco. Questo non è roba, capito? Logica ferrea, non c'è che dire quella di Manolesta. Fatto sta che mai come quest'anno, nei mesi in cui la crisi mondiale si è acutizzata, i furti in negozi, grandi magazzini e supermercati sono stati così tanti, non solo in Italia. Nel nostro paese il valore dei prodotti rubati ha raggiunto i 3 miliardi e mezzo di euro, cifra che rappresenta l'1,3% delle vendite. Nel mondo si parla di 88 miliardi di euro e la proporzione sul fatturato sale all'1,4%. Lo rivela l'edizione 2011 del Barometro Mondiale dei Furti nel Retail. La consueta indagine sul numero e la tipologia di furti commessi all'interno dei punti vendita e della grande distribuzione, patrocinata da Checkpoint Systems. Quest'anno il risultato di taccheggi, frodi di dipendenti e fornitori, azioni della criminalità organizzata ed errori amministrativi ha subito un aumento del 6,6%, il più alto mai registrato dal 2007, e per l'Italia il dato sale addirittura al 7%. Pierpaolo Lambrini di Checkpoint Systems Italia. In parte è sicuramente un ritardo della ripresa economica, ma se andiamo poi ad analizzare con attenzione quello che sono i dati, vediamo che comunque un importante incremento è dovuto molto spesso anche ai professionisti del taccheggio, non al cliente abituale. E a pagare alla fine sono i consumatori, che si accollano una specie di tassa invisibile. 175 euro a famiglia in Italia sullo scontrino annuo della spesa, perché i negozianti scaricano il danno sui prezzi di vendita. Per quanto riguarda i prodotti più rubati, la classifica in Italia, così come nel resto del mondo, vede al primo posto gli accessori di lusso, seguiti dai prodotti high-tech, MP3, console, videogiochi e dai profumi e articoli per la cosmesi. I furti di mascara, eyeliner e ombretto in particolare sono aumentati del 30%. È l'indice lipstick, verrebbe da dire, l'indice rossetto, indicatore cosmetico infallibile delle crisi economiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Indice non unico di crisi economica. Continueremo a parlare, anche questo uno dei temi di oggi. Una piccola pausa, poi GR24. Prima edizione. Ed è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buona mattina a tutti, oggi è il 18 di ottobre, buongiorno da Daniele Biacchessi. Chi sono i writer? Ragazzi che compiono azioni legali oppure artisti? Il giornalista del secolo XIX, Marco Ballarino, ha scritto un bel libro chiamato Il Muro, proprio sui writer. Nel 2003 a Imperia, la città in cui vivo e lavoro, si è scatenata una guerra dei graffiti, con bande di giovanissimi che imperversavano per il centro storico tappezzando i muri di scritte dai significati oscuri. Questi ragazzi, subito additati come teppisti, però negli anni sono cresciuti e oggi, uscendo dalla clandestinità iniziale, sono diventati rinomati personaggi, invitati a mostre in tutta Italia e all'estero, e che addirittura con le loro opere di street art riqualificano le aree degradate dei tessuti urbani. Chi sono questi personaggi? Come si chiamano? Ma io posso citare sicuramente Mister Fiodor Benzo, Riccardo Gorn Lanfranco, gli OPM, che sono gli organismi poeticamente modificati, i Manigols, tutti i ragazzi che, partendo da scritte sui muri, qualcuno addirittura sulla stessa tappezzeria della sua camera, sono poi arrivati a sviluppare opere con contenuti anche multimediali, audio, video, qualcuno già nel mondo del cinema e della musica. Quindi un'inchiesta la tua, un'inchiesta nel mondo dei writer, non c'è solo Imperia, ma naturalmente il fenomeno è spostato in tutto il paese. Sì, in questo periodo ci sono 8 città che durante l'estate hanno fatto da prova per il Ministero per questa opera di riqualificazione. In particolare a Torino nel 2008 è stato allestito in Corso Valdocco un gigantesco murales commemorativo dell'incidente della ThyssenKrupp, al quale ha partecipato Fiodor Benzo, citato poco fa. Questi ragazzi, ormai quasi non più ragazzi, da dove arrivano? Abitano in quartieri popolari oppure in quartieri più residenziali? La loro origine sociale è abbastanza eterogenea, perché si tratta sia di ragazzi di buona famiglia che di ragazzi magari provenienti da fasce meno agevolate. Ma sono tutti ragazzi che hanno in comune la passione per la creatività a 360 gradi, che inizialmente non si sono fermati di fronte alle barriere architettoniche, magari della stessa legalità, e che oggi investono a tempo pieno nella loro passione per farla diventare un lavoro e uno stile di vita. Diciamo che, a prescindere dalla origine sociale, quello che li accomuna è uno spiccato interesse per il viaggio e l'esplorazione di nuovi contesti creativi in giro per l'Italia. Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Grazie. anche Daniele Biacchessi. Ancora buona giornata da Anna Migliorati. Con Prima Edizione invece voltiamo pagina. Gli appartenenti alle forze di polizia e vigili del fuoco scenderanno oggi in piazza davanti alla Camera e al Senato nelle principali piazze delle città italiane e chiederanno un aiuto ai cittadini, un contributo per acquistare benzina da destinare alle volanti e gli automezzi. Un'iniziativa che riguarda in tutta Italia ma che è nata in una città precisa, a Modena, e io saluto il segretario provinciale del SIULP di Modena, Bruno Fontana, per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Per quanti giorni avete ancora benzina per le volanti? Noi abbiamo stimato ancora una ventina di giorni. Dopodiché che succede? 3 settimane e poi si va a piedi? Poi si va a piedi, oppure bisogna razionalizzare. Già lo stiamo facendo, per esempio c'è una disposizione in cui si esce solo in moto, la statale, perché la moto consuma meno e quindi risparmiamo un po' di benzina. Però finite le riserve penso che non ci siano altre alternative. Usciamo a chiamata, con le poche chiamate più importanti, ma non credo che sia la soluzione anche questa fattibile. Così a Modena, ma la situazione non è diversa in molte altre città italiane. Che effetto le fa il fatto che il governo in questi giorni parli di stretta sulla sicurezza, di piani per evitare le violenze, quando a voi manca la benzina? È un controsenso questo qui, infatti il motivo per cui noi saremo in tutte le piazze d'Italia è proprio questo qui. Si sta discutendo di un ulteriore taglio di 60 milioni di euro, che vorrebbe dire che se quest'anno a novembre finiamo la benzina, il prossimo anno la finiremo a maggio. Quindi è proprio questo il segnale forte che vogliamo dare. I cittadini sono con noi, perché i primi attestati sono molteplici, abbiamo numerosissime telefonate, email che ci chiedono come fare per versare questo contributo. Come fare? Ci fa piacere. Oggi distribuiremo un numero di conto corrente del Ministero degli Interni dove posso fare un versamento. Abbiamo detto simbolicamente 1 euro, ma ognuno può versare quello che può. Senta, è un po' una provocazione, ma si resta davvero senza benzina per le volanti, per la sicurezza? Sì, no, non scherziamo, perché è una provocazione, ma è vero, effettivamente è così. In alcune città hanno fatto uno stanziamento urgente di 5.000 litri, proprio perché altrimenti dal giorno dopo non ho piedi, quindi siamo a questi livelli qui, non è più uno scherzo. Può davvero succedere che le volanti non escano in strada perché io sono in una situazione di sicurezza, chiamo la polizia e mi viene risposto non c'è più la benzina. È un segnale grave. È molto grave, infatti tanti ci chiedono e ci chiedono perché siamo arrivati questo. Siamo arrivati così perché tagliare sulla sicurezza sono ormai 2 anni che si continua a tagliare, fino a che ormai siamo arrivati proprio alla frutta. Ecco, questo è l'ultimo stadio, perché finché non abbiamo le divise ci arrangiamo. Noi in quest'estate molti colleghi hanno fatto il primo fuori in mezzo alla strada con i pantaloni invernali perché non c'erano quegli estivi. Uno fa un po' di sacrificio e lavora lo stesso, ma senza benzina non usciamo. Questo è proprio il problema più grosso. Allora lo diciamo ai nostri ascoltatori, se oggi incontrate un poliziotto con un bollettino postale che vi chiede 1 euro, non è una truffa, non è uno scherzo, è invece questa la protesta per chiedere benzina per le volanti. Grazie al segretario provinciale del SIULP di Modena, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Dalle strade italiane a tutt'altro contesto, saluto Ugo Tramballi, buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, hai sentito un po' che succede sulle strade italiane oggi, ti chiedo invece di portarci altrove, di portarci in Egitto, in Israele, in Palestina, per capire cosa succede invece in queste ore. Succede che Gilad Shalit, il caporale israeliano da 5 anni prigioniero ad Hamas a Gaza, sarà liberato. In cambio verranno liberati dei detenuti palestinesi. Perché è così cruciale questo scambio, Ugo? Sì, lo scambio sta cominciando, cioè alcuni prigionieri, le 27 donne che saranno liberate, palestinesi che saranno liberate per prime, sono già in movimento verso le loro case e da un momento all'altro anche Gilad Shalit sarà... Sì, è una notizia che aspettiamo in questi minuti, infatti, Ugo. Sì, infatti già ci sono appunto i negoziatori a Gaza che stanno per incontrare Shalit. Cruciale non lo è, cioè è un evento mediatico, è un evento molto importante per Israele, perché Israele si confronta il suo dilemma continuo fra punire e vendicarsi di chi li colpisce e invece portare a casa uno dei loro e quindi in qualche modo perdonare il nemico. Ed è un dilemma continuo, ecco, però detto a parte perché per Israele, a parte che per Hamas, che sarà comunque una sua piccola vittoria politica, portare a casa un migliaio di prigionieri. Ecco, perché a Israele tutta questa storia mediatica è costata parecchio, tra virgolette, perché si parla di un migliaio di prigionieri palestinesi, quindi non sono pochi. Sì, esatto, infatti per questo c'è stato anche ci sono state anche molte polemiche. Giusto mezz'ora fa l'alta corte ha respinto quattro appelli dei familiari delle vittime degli attentati terroristici che avevano cercato di fermare non tanto la liberazione di Shalit quanto la liberazione dei 1000 ostaggi, ma di conseguenza anche la liberazione di Shalit. Quindi è un dibattito molto, molto intenso. Perché le famiglie delle vittime di attentati terroristici non volevano questo scambio. Prima edizione. Torniamo con Ugo Tramballi. Dicevamo, ormai imminente la liberazione del soldato israeliano in cambio di un centinaio di prigionieri palestinesi. Ugo, dicevamo, i contrasti interni in Israele sono parecchi, perché i familiari delle vittime di attentati terroristici erano contrari agli scambi. Dicevi tu, solo poche ore fa la Corte Suprema israeliana ha respinto il ricorso, di fatto permettendo che l'operazione di oggi si svolgesse. Operazione mediatica l'hai chiamata tu, sono moltissime le telecamere che saranno puntate su questo evento, non a caso. Esatto, appunto, questo abbiamo già detto, ma riguardo all'importanza politica dell'avvenimento non ce n'è, perché non avrà nulla a che vedere questo avvenimento, questa liberazione, col conflitto. Il conflitto continua, non è pensabile, date le circostanze, dato l'attuale governo di Israele, dato la posizione di Hamas, non è pensabile che da questo, che sarebbe un buon motivo, si possa cominciare un processo anche di dialogo tra Hamas e Israele. Questo non è pensabile. Gilad Shalit sarà liberato, i 1000 prigionieri saranno liberati e da oggi pomeriggio, quando tutta questa vicenda sarà finita, il conflitto continuerà come prima. Il prossimo appuntamento fissato, deciso proprio nelle ultime ore, è il 26 ottobre prossimo, una riunione del cosiddetto quartetto che media ormai da tempo immemorabile, parteciperanno anche israeliani e palestinesi. Non succedeva da tempo, ma dopo questo scambio era inevitabile che almeno l'annuncio ci fosse. Beh sì, il quartetto è un fantasma, è sempre stato un fantasma e continuerà ad essere un fantasma. È ovvio che in assenza totale di passi in avanti ci si deve anche affidare ai passi dei fantasmi. La liberazione, ce lo raccontavi tu poco fa, sarà per tappe, uno scambio su scambio, non è diretto, vero Ugo? Sì, intanto adesso Shalit sta per incontrare i negoziatori internazionali, principalmente gli egiziani, i quali lo accompagneranno in territorio egiziano. Vi resterà per una quindicina di minuti, verrà visitato dal comandante in capo. E siamo a tra pochissimo. A tra pochissimo. Nel frattempo verranno appunto liberate definitivamente queste prime 27 donne e dopodiché Shalit verrà accompagnato in elicottero in una base aerea dentro il territorio israeliano, dove incontrerà Bibi Netanyahu, il primo ministro, il ministro della difesa, il capo di Stato Maggiore, i quali dopo appunto un evento mediatico, appunto fotografie, dichiarazioni, accompagneranno il ragazzo dai genitori che sono lì in un'altra parte della base. Dopodiché nel frattempo intanto verranno liberati gli altri primi 450 prigionieri uomini, dopodiché il ragazzo tornerà a casa sua in Galilea e cominceranno appunto di nuovo le polemiche all'interno di Israele e quindi gli ultimi 500 prigionieri saranno a quel punto si chiuderà così l'operazione. Grazie Ugo Tramballi per essere stato con noi, lo ritroveremo nel corso della mattinata anche nel corso di GR24, perché vi racconteremo comunque tutte le tappe di questa liberazione. Grazie nel frattempo a Ugo Tramballi. Grazie a voi. E eccolo, sentite il rumore dei giornali, sì, Alessandro Milan. Sì, eccoci, buongiorno, buongiorno. È il rumore che ti contraddistingue ormai. Ah, cosa ci racconti? Della carta strappata. Della carta strappata. Vabbè, ma si leggono anche così i giornali. Vabbè, anch'io seguirò un po' la vicenda di Ilan Shalit. Avremo Manuela Dviri, che è una scrittrice italo-israeliana e che ha perso un figlio militare israeliano. Ci racconterà anche il ruolo dei genitori, il ruolo della pressione delle madri, in questo caso della madre di Shalit, che è riuscita a ottenere con una grande pressione mediatica questa liberazione. Però parleremo anche di altro, per esempio il Parlamento italiano che in un anno racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, vabbè, ma io leggo quello che scrivono. Sì. Ha prodotto 14 leggi di iniziativa parlamentare, non decreti legge del governo convertiti, 14, tra cui quello del cambio del nome del parco del Vallo di Diano, che adesso non si deve più chiamare Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ma Parco Nazionale degli Alburni del Cilento e del Vallo di Diano. 14 leggi, beh, insomma. Perché gli Alburni sono preservati per legge adesso. E insomma, e poi racconteremo anche che in Gran Bretagna, tra lo stupore dei chirurghi estetici e anche delle donne, vogliono aumentare l'IVA per il ritocchino. Perché ridi? Beh, più tasse sul ritocchino. Vuoi rifarti quanto le labbra, pensano di incassare, vuoi, ecco, rifarti il così. Seno, vuoi rifarti, paghi le tasse, paghi di più tasse sul ritocchino, e i chirurghi dicono così arriverà la crisi, perché adesso tutti quelli che si vogliono rifare non lo faranno più, vabbè. Oppure pagheranno le tasse. Va bene, grazie Alessandro Milan, ti aspettiamo naturalmente con la rassegna stampa. Noi ci sentiamo tra pochissimo invece con GR24. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.